Corso DOC è un potenziamento in documentaristica e cinematografia che accompagna un corso di scienze umane del Liceo Laura Bassi di Bologna. Il potenziamento però non va inteso come un laboratorio a latere di un normale indirizzo di scienze umane, ma è proprio una metodologia didattica, cioè tutti gli insegnanti afferenti al progetto piegano la loro programmazione nell'ottica della realizzazione di un audiovisivo che passa quindi attraverso tutti i mestieri del cinema che si mettono in opera quando si fa una produzione di questo tipo. È una sperimentazione nata una decina d'anni fa e che poi nel corso del tempo si è consolidata andando a prendere proprio una sua identità che la distingue da un normale corso di scienze umane, ne fa proprio qualcosa di assolutamente diverso che viene richiesto proprio per la sua specificità, nonostante l'insegnamento delle materie tipiche di un indirizzo di scienze umane tradizionali continuino a essere insegnate a pieno orario. Evidentemente questo corso, questo potenziamento piace molto, e tant'è che c'è stato un boom di richieste di iscrizione. Sì, infatti gli utenti, che siano gli studenti o le loro famiglie, apprezzano moltissimo questa nuova metodologia perché va incontro proprio a quella che è la vita ormai quotidiana delle ragazze e dei ragazzi che sono abituati ad utilizzare strategie diverse da quelle tradizionali per impadronirsi delle loro conoscenze, e in più si crea un clima di grande collaborazione tra docenti, studenti e le famiglie in un lavoro che di tipo educativo proprio, che coinvolge molto profondamente chi frequenta questo corso. È diventata una realtà quindi molto appetibile anche da quei ragazzi e da quelle ragazze che magari non si trovano a loro agio nei corsi tradizionali o per le loro propensioni particolari che non trovano la possibilità di esprimersi pienamente in un corso di studi standard, o perché magari hanno anche qualche disturbo dell'apprendimento che attraverso queste nuove metodologie viene in questa maniera girato. Però questo successo ha rappresentato un problema proprio perché un discreto numero di ragazzi e ragazze rimangono esclusi. Il problema è che, nata in piccolo, questa realtà ha avuto successo, si è espansa, per cui la domanda è cresciuta moltissimo, mentre l'offerta è rimasta un po' indietro. Si è partiti con una sola sezione, poi è stato aggiunto un biennio a fronte di un solo triennio, quindi alla fine della seconda, di due seconde in pratica si deve fare una sola terza, e quest'anno c'è stato un esubero tale di richieste che appunto una ventina di quelli che avevano fatto domanda devono rimanere fuori. Il problema è generalizzato, non riguarda solo il corso DOC, ma mentre un altro corso di scienze umane, un altro linguistico, si possono trovare anche in altri istituti, un'esperienza come questa non può essere improvvisata da un giorno all'altro, rimane un po' unica nel suo genere, quindi chi rimane escluso deve proprio adattarsi a una scuola completamente diversa da quella che aveva scelto, ed è per questo che stiamo combattendo, per cercare, di fronte all'evidenza dei fatti, di indurre la scuola ad aprire una terza prima e una seconda terza, un secondo triennio, con la prospettiva di arrivare a tre sezioni piene. Siamo consapevoli del fatto che magari c'è anche una sorta di moda nello scegliere questo tipo di corso, e si vedrà con il tempo quanto a lungo durerà questa preferenza, però al momento è effettivamente molto richiesto e rappresenta un unicum nel panorama scolastico della nostra città, motivo anche per il quale, di fronte alla sordità, diciamo così, della scuola davanti alla nostra richiesta, abbiamo cominciato ad allargare l'interesse attraverso la petizione e siamo arrivati fino a un'interrogazione consigliare. La vostra petizione ha riscosso successo? Beh, insomma, abbastanza, perché stiamo veleggiando già verso le 2000 preferenze, quindi insomma diciamo che per essere stato un tam-tam fra noi e tutti gli enti che sono collegati a questa esperienza, perché il DOC si avvale anche della partecipazione di enti esterni, non si esaurisce solo a scuola, abbiamo un tutoraggio fornito fondamentalmente da Cineteca e da Antoniano, siamo in contatto stretto con Bottega Finzioni, quindi c'è anche questa bella realtà di integrazione fra la scuola e le istituzioni culturali della nostra città che gravitano nell'ambito della cinematografia e della documentaristica. Questo fa sì che i ragazzi che vengono sono fuori da questo corso abbiano imparato fin dal loro ingresso a relazionarsi con persone di varia professionalità, di vario ruolo, e a integrarsi già con quelle realtà che potrebbero poi diventare le loro, fermo restando che comunque escono con una preparazione liceale che consente loro di affrontare qualunque scuola universitaria ritengano. Ma la dirigente scolastica perché nega questa possibilità? Ci sono chiaramente delle difficoltà oggettive, non è che queste noi le vogliamo ignorare. Non sembra che apprezzi più di tanto, o perlomeno come la sua predecessora, questa esperienza didattica. Insomma, abbiamo sempre dovuto un po' lottare per poter procedere nel nostro cammino. Le sue preferenze, ovviamente lei ha l'autonomia per farlo, si rivolgono evidentemente più ad altri indirizzi di tipo più tradizionale, insomma. Questo almeno è quello che sembra.